infatti quella frequenza che ti ho detto è interessante, soprattutto la mattina presto della notte, perché dice lo smistamento degli aerei che passano sul Mediterraneo, quindi è piacevole da ascoltare. E ho capito, aspetta che prendo un attimino di consiglio, un minuto dopo già andare. Antonio, l'importante è non criticare nessuno e parlare dei cacchi nostri, capito? Tinder. Non è che siamo lì per criticare o per fare, nel modo più assoluto. Siamo lì perché è interessante tutto qua. Vediamo qui come siamo. Allora, come va in FM questa radio? Bene? Perfetta. Anche da te, Fabri? Perfetta, perché non sei che io comunque sono tutto attenuato. Sono tutto attenuato io, ho capito, perché ho quel problema in FM. Beh, infatti tu sei leggermente più basso di Antonio, ma siete tutte e due una schioppettata. Va bene. Ok, dai. No, io sto usando una radio completamente diversa, Antu. Non ha niente a che fare né con 140 né con 440. Fabrizio lo sa, ma non l'ho detto a nessuno, comunque. Sto usando un altro tipo di radio. Proprio per avere la garanzia e la cosa di poter stare tranquillo, uscire non a crepatura, ma bene. E soprattutto non avere problemi, dai. Sto usando quella digitale e comunque non c'è problema. Ho capito, stai dicendo egregiamente, assolutamente. Vabbè, ma te l'ho detto, tu realmente ti puoi avvalere poi di una radio e di buttare via tutte le altre, ma per il semplice fatto che qualsiasi radio tu utilizzi, la modulazione tua è sempre quella, il segnale è sempre quello, quindi non cambia, capito? Non cambia, è uguale. Mentre invece vedi, a te ti sento molto bene, mentre a Fabrizio lo sento... stai trappando Fabrini FM, sembri saturo un po' così. C'ho il processore, non so se lo devo tenere, ma sì, guarda, aspetta. Sì, ti abbasso un po', era c'era un po' di fa. No, forse sto va meglio, ma io ho il problema di FM che sta fare c'è problemi. Infatti eri a 9,80 qua proprio a Smith l'ha attaccato e ti stavo attenuando, immaginati. Però basta, adesso stanno a 10 watt, perché come sono stati in FM è salito di colpo i watt, capito? Qui non è che hai picchi, non è in FM, quindi sono 10 watt fermi. Fabri, dimmi qua. Non usare il processore in FM, lascialo libero. Questo ad esempio, la radio, il bello di questa radio è che non c'ha né processore, cioè non c'ha, ce l'ha, ma non agisce né in AM né in FM, è solo in banda laterale. Quindi la modulazione che voi sentite in AM di questa radio non è esclusivamente senza processore, solo con la mia timbre che è l'MC60. Scusatemi un attimo. Fabrizio, vuoi che te la porti quel rosmetro? Sto uscendo. Sì, portamelo, così ti do le lampadine. Capito? Adesso sono senza processore. Capo, anche là, ci sentiamo dopo dal QTH. Però lascia fare un simbolo, buonasera. Ciao Silvè, ci sentiamo dopo, dai, riprendete. Riprendo io, Asco, come ti sembra senza processore? Bene va, ciao Anto, ci sentiamo dopo, ciao Giampa, esso Maria Gaga, ti sto ricevendo col 950 con quello che avevo comprato da Sandro e stai andando divinamente bene, ma bene veramente però, e lo senti Giampaolo come arriva bene la protese? No, passiamo in AM, io lo so che in FM senza voi, a me mi taglia tutto fuori, ho problemi di ricezione, mi abbassa completamente, deve esserci qualche cosa da fare qualche piccolo allineamento, l'unico problema di questo apparecchio è questo qua. In FM io va bene, esco, riesco anche a senza problemi ad ascoltare, ma te entro Sassari, quando inizi i segnali fuori non li ascolto. Ok, passiamo, aspetta prima, fammi risentire a Giampaolo, voglio vedere come arriva qua in FM, Giampaolo. Ehi, ma Fabrizio è la scena, mi sono chiedicata, vai da, ho pigliato e ritagliato e cutta a terra, oh. Non è possibile mai, capita, che non intendi, Modulazione che c'è in FM, cazzo, che modulazione che c'è in FM con quella radio, veramente... strepitosa, veramente bella, sì, 9 più 40, cioè 9 più 40 in FM, la radio è bellissima, passa in AM. E si conferma, gliel'ho detto anche io stasera, non lo stavo riconoscendo. Ciao ciao. Sempre Antonio, sempre by Sparviero. Quando tu senti le radio voci belle c'è sempre il zampino di Claudio Sparviero. Ma certo non posso dire il contrario, sto usando quelle, quindi. Sei favoloso anche tu per la modulazione, ma Giampaolo è strepitoso veramente, è quella radio che abbiamo dato due girettini di ritocchi, è veramente favolosa. Passa in AM, Giampaolo. Collins, non c'è filtri della Kenwood con quello che fa sono giù, filtro 1, filtro no, quando c'è il filtro narra con due posizioni, narra e wide, e non c'è niente per nessuno, è un attenuatore che fa paura, è un ricevitore che fa paura, è la miglior radio in assoluto che ha mai potuto fare la Kenwood di quelle dimensioni, ma te lo dico per esperienza vissuta, te lo dico perché ce l'ho, te lo dico perché li ho passati tutti e due, e te lo dico con molta sincerità, perché andrei a offendere me stesso. Il 430 al 440 se lo mangia, ok, con la T250 poi è una radio che non si dà mai a nessuno, mai, perché in FM rispetto al 440 non ha niente a che fare, in banda laterale non ne parliamo, perché se tu vuoi vedere come modula la radio di Giampaolo in banda laterale ti metti a piangere, ma senza toccarla non ce n'è lì modifiche non ce n'è. Quella radio esce così perché c'è un modulatore, una spinta che fa paura. No, mi piace, infatti prendo tu la ripresa al 440, così già si sente che hai il processore di inserito, poi per 440 la notte ti senti proprio stop, il microfono, senti tutta l'amplificazione intorno, poi magari tu dici non è nemmeno così bella che c'è tutto quello che c'è intorno, televisione, famiglia, che chiacchiera, però allora, cioè, spinge molto di più, spinge molto di più, ma tu ti ricordo che io sono senza processore e con le micchine a 1, se lo metto a 2 già inizio a sentire la differenza, ecco qua, così le micchine a 2 anziché a 1 e già senti la differenza. Sì, è vero, ma infatti io che non devo tenere forse anche a 1,5, però vabbè, tu spingi sempre, io però sono convinto che una voce normale con quello, il 430, la senti un bombo la differenza. Tanto c'è una spinta allucinante, Fabrico, te lo dico perché ti ripeto, ribadisco, andrò a offendere me stesso, ma io che una radio le ho provate tutte a differenza vostra, quindi differenze posso dirti tra 140 e 80, tra 440 e 430 e così via, tra l'850 e il 950, tra cosa ti posso dire, tra l'8.30 e il 9.40, io le porto tutte, e quella che ha maggior risultato, sto parlando di AM, ma posso mettere in mezzo anche la FM e la banda laterale, il 430 che è bella esteticamente, tu l'hai vista, bella esteticamente anche di figura, perché non ha niente da vedere al 440, ti posso dire che ci sta veramente, Giampaolo la sta provando, quindi ci saranno delle decisioni da prendere, spero che le prenda, perché secondo me, Giampaolo, non so se sei contento, ma io ti posso garantire che hai veramente una bellissima modulazione, il segnale qua a casa mia è 9 e sei veramente una bomba. Sì. No, che brutta trovare in persona, capito? Mi segnale, quindi sta provando il 430, adesso poi vedremo cosa si riuscirà a fare anche per lui. Va bene. Avanti Fabri. Ma io dico che con Giancarlo il segnale è sempre quello, però la radio è proprio più chiara e sta spingendo molto di più. Ho l'abitudine a sentire la radio sempre un po' confusa molte volte, questo sta spingendo bene, mi piace. E più bei, e spingi di più forse anche il 440, però voglio dire anche per me l'ideale, perché mi serve un accordatore su giù e quindi è compatto, non ho spazio, perché se nei siti se avessi avuto spazio un bene piano, anche bello da volere, ci metti l'accordatore suo, lo metti nel tuo, bellissimo, e va bene, però per uno che ha necessità di spazio, quello che ho io per il momento è l'ideale, oppure prendi quello che ci sei tu, capito? Quello mi piace molto, mi viene un'idea, però tanto quello che sono io al momento è grande, capito? Al momento è grande. Perché adesso con quel 430 mi sta arrivando una voce, capito? Mi sta spingendo, capito, molto, sta spingendo molto come radio, ci sente proprio con molto spinta, capito? Quel 430 non l'ho mai toccato di potenza, l'ho solo regolato leggermente di LC, ecco, proprio un pelino, ma spinge talmente tanto che non c'è neanche bisogno, capito? A differenza del 440, il 430 c'ha il microprocessore direttamente sul VCO, capito? E quindi ha una spinta allucinante, bellissima radio anche esteticamente, guarda, io ne sono innamoratissimo del 430. Io per il 430 ho trovato la soluzione a T250, quindi l'accordatore di linea automatico, lo metti in automatico e quando ti sposti di banda tu schiacci la portante, a differenza del 440 che devi tenere il pulsante e accordare tu, quello fa in automatico. Il mio accordatore automatico è la T250, non è il quello che c'è al 440, perché quello del 440 tu devi inserire il pulsante pigiare, quello no, quello tu schiacci la portante e lui accorda automaticamente. E fa da 0 a 30 MHz, in più, c'è il commutatore d'antenna a 4 antenne compreso il carico fittizio, quindi fa correttore, commutatore d'antenna, rosmetro, mattimetro sino a 200 watt, che sono quelli che dà la radio, il massimo che può dare la radio del picco di modulazione, ed è eccezionale quella macchina lì, è eccezionale. E purtroppo chi ce l'ha però se la tiene, è difficile che li trovi, io ne ho trovato qualcuno in vendita, infatti serviva a Luca di Roberto, 200 euro la va a prendere subito, l'ho detto ad Antonio, la va a prendere subito, capito? Perché io lo pagai da nuovo 1.800.000 lire fuori dalla radio, e usato l'ho pagato 350 euro, quindi siamo sempre a 700 euro, perciò il prezzo è simile ad una radio, immaginate tu il valore che ha tenuto quell'accordatore, proprio perché è un signor accordatore di linea per il 430, il C80 e il 140, ma anche per il 440 se non c'è l'accordatore incorporato, allora puoi inserire la T250, altrimenti non va bene, ti fa rientro, capito? Oh, buonasera! Buonasera a lei! Ben ascoltato, ma tutta la ruotina. Andando verso Olbia. Positivo. Ah, e tu rientri a metà PM di Luna, sei qua, eh? Claudio, adesso che ti ho sentito ti volevo chiedere informazione. La batteria dell'M del timer M+2 si trova da 7 volte. Piccolina? No, ma mettine una di quelle, sì, già si trova, non so dove, ma già si trova, ma le puoi mettere anche una da leggermente più grande, non lo fa niente. Io ho detto 7 watt. Mi sembra quella con la macchina fotografica, ecco, la nostra. Conferma, sì, la trovi la foto amica, quelle batterie lì, o come, la foto amica te la prendi, sono quelle delle quando vuoi veloce ce la trovi, altrimenti la prendi da 7, che poi mi pare che sia la 7,5, e la trovi da poco amica, capito? Perché me l'avevo dato, lo stavo controllando, come sto dicendo, questa batteria scarica, dell'altura, c'è certo. Una tua idea con per me. Troppo alta, capito? In galleria si entra numero 4 KK. Fabrizio. Fabrizio. No. Fabrizio sicuramente sta facendo qualcosa. No, ma mi pare che doveva scendere giù da, come si dice, da Antonio a ritirare un rosmetro o qualcosa del genere. Non lo fa niente. Ah, punto. Parla, parla. Ma non sto uscendo, Giofra. Non sto uscendo. Ma è basso il segnale. No, è così vicino che mi richiami. Adesso sto uscendo. Adesso ti sento. No, vuole controllato il microfono, Giofra. Vuole controllato il microfono. C'è qualcosa di nuovo qua. Nada, nada, nada. Ma sono importante e basta, non ti sento. C'è qualcosa che non fa dentro il microfono. Fanno uscire, esci, eh. Oia, niente, niente, Gianfra. Luca, Luca. Guardami, senti un po' adesso. Sentite questa radiolina con la penna di gomma, cambio! Stai facendo? Perché stai mangiando il trippa? ad intavola trippa, anzi la sto mangiando anche in questo momento. Schifo, ma con quello imbarattolo? Ho trovato questo piatto già pronto, trippa al sugo con mentuccia, sta a Cagliari. Molto. No, facete uguale di segnale. Ordinario di mi trippa. Non ti ho copiato. Si crepate a vicenda più che altro, me. Non si comprende né una né l'altro. Venga avanti, va. Mi sentite, insomma? Sento bene Fodde e non sento bene l'Antonio. Sentimi un attimino, la differenza tra questo passaggio e questo passaggio senza niente, com'è? Piede 9 e 9,15. 9 e 9,15 la differenza. E così, aspetta, è così, adesso sono un attimino più forte. Alleluia, se è passata a 9,15 ma passate con picchi di modulazione, un po' di fiume. Però prova a venire avanti un attimino, prova a una modulata che va, schiaccia la portante, vai in portante, ora, ora, 1, 2, 3, prova, guarda se lo passo. Non parlano, lo passi, no? Guarda, 1, 2, 3, prova, prova, microfono. 1, 2, 3, prova, ditemi un po' come sentite. Non se ne comprende né uno né l'altro. Se io provo la cosa, la scarpettina, prova a rimodulare, vedo. E stavo provando da prima, però mi dice che non si sente. Va. Non si capisce niente proprio. Cioè siete uguali, precisi identici di segnale. Ciao a tu! Buongiorno Marino. Buonasera. Ciao a tu, il secondo. Ho sbagliato, non è Gian Maria, ma è Giulio. Ciao Giulio. Ciao. Non per la Bebetti, i due rapporti. Fra i due, fra me e lui chi sta passando, fra me e Sberla. Nessuno, confermo quello che ha detto Antonio Bomolo. Se ne comprendi nulla. Nulla proprio. Allora lui è più potente, perché considerando che io sono in via degli astronauti e c'ho anche sotto una scarpettina da 15, 3, adesso non so se da 15 o da 30, lui dovrebbe uscire lì, lui è liscio, evidentemente gliel'ho piantata proprio bene quell'antenna. Si vede che è proprio così, con la tua posizione a tu. Lui è all'inizio di via l'Italia dove c'ho il QTH io sono da tutt'altra parte adesso. Ma per la mia zona lì dove c'è via l'Italia, via Rocatelle, è favorevole, molto favorevole, dove abita Daniele ad esempio, arriva sparato qua. Abito dove abita Daniele, l'avrei già vista la mia antenna. Da lì si arriva sparati qua, in questa mia zona. Hai sentito Giulio, sono Sberla. Comunque quando uno è bravo piazza l'antenna, bisogna dare merito a Grotte. È un po' così. Hai capito, Eddie, che ti ho fatto una superstazione? Io ho sentito, ti ho anche sovramodulato, perché siamo entrati insieme, evidentemente. Dicevo che al di là del fatto che sono in zona favorevole, bisogna dar merito anche a te, che l'hai piazzata bene. Sì, adesso in questo passaggio, un attimo, ho ascoltato bene, in questo passaggio passa leggermente le radio, ma poco, quasi, si capisce niente praticamente, però la radio passa un pochino. Sentito Giulio, non so se prima me l'avevi sentito. L'hai capito tu? La radio passa la tua, ma quasi niente, non si capisce insomma. Però si sente che la radio è un po' più forte. A dirò, Giulio, grazie. E vabbè, meglio così. Babu, ciao tu, ci sentiamo, rimango con lei. Ciao Antonio Bombolo e ciao Edoardo. Con lei chi riprende, vi ascolto. A risentirci. Buona carica Giulio, ci sentiamo dopo, dai. Anch'io sono un attimino in carica, Bombolo, dove ci sentiamo per bassa dopo. Ma Giulio dai, ce la risentiamo. Ah. Ben sentito a tutti, vado a rispondere al telefono. Thank you. e quando hanno fatto questa offerta ci stanno ammazzando, c'è tutto a sorpresa, quindi c'è un bel di gente. Senti un po' la ripetizione, c'hai il tiro un po' strascico. Non si è sentito nessuno? Sì, tu. Quindi io, tu, altre tre o quattro persone in ascolto, dai. Siamo messi a ballare l'alligalli. Attenzione Fabrizio, Ace of Cat. Attenzione Fabrizio, chi di gatto, Gambi. Avanti. Visto, e siamo già in sette, Gianni. Siamo in sette. L'ho trovato? Perfetto. Questo casino. Perfetto, intorno ai 1,5 stazionari, quindi va tutto bene. Manca magari da 10 anni sul tetto, ma è tarata per queste frequenze, immaginate un po'. Va bene, va bene. Quando ti sta dando il watt, sono giusti? Watt giusti. È un po' il rosmet, ecco, lì, già va bene. Già va bene, già va. Domani aspetta un attimino che devo richiamare il bambino. E quindi di andare a pescare ne parliamo il prossimo anno. Di certo stasera non si può andare col vento che c'è. Ui. Ai ai ai. Potrebbe andare a Saraghi. Saraghi? Saraghi bisogna farli dalla spiaggia oppure da un posto. Bisogna conoscerlo. Lo sai che non mi faceva piacere di pescare col finto, che non ti scurti le mani, non sai a tagliare esche, a rotture le balle. Ma ti devo chiamare Permaflex stasera, stai sempre sbadigliando. Cosa ti hanno fatto, Grotte? Oh, cosa mi sono fatto io, nel senso che non ho dormito ieri notte, non so per quale motivo, ero... Poi mi sono attaccato al computer, ma sono groggi. Anch'io non ho dormito ieri notte. Tipo, vi siete sovramodulati, è passato già anni avanti, Fabio. Ho detto, anch'io non ho dormito ieri notte. Fabio, buonasera. Buonasera Gianni, pensavo che avevo salutato perché sto battagliando col bambino che non voleva andare a fare la pipì, il piccolino, capito? Quindi io... Ho capito. Bello, hai visto quello che ci hai detto ieri notte al computer? No, l'ho cercato, non mi ricordavo cosa avevo, donna affezionata, lo devo cercare. Devi cercare l'autopsia di una donna. Ah, te lo sei visto? Certo che sì. Vegliacco, ma hai visto quando a un certo punto gli toglie un pezzo di seno finto? Scappa. È tolto proprio silicone. Protesi che c'era dentro. Tra l'altro neanche lui se ne è reso conto. Ma hai visto il classico taglio a Y? Poi con un bisturi la fa accendere un pezzo, hai visto? E con un bisturi una sega per tagliare le costole. Se l'ha fatta quella lì non è un'autopsia, ragazzi, quella lì è uno sventramento, tutti gli organi l'ha tolto fuori. Sì, ma hai visto come sta, cioè è veloce, apparentemente non sembra che abbia rispetto, però è molto rispettoso per il cadavere, comunque non è molto professionale, professionista. E mi ha dato un po' da pensare, ho pensato subito a mia madre. Mi hanno fatto l'autopsia, no? Scappa. Vabbè, ma non è... Non, sai, quando... Lì hanno tolto tutto, Mentre invece quando hanno un dubbio d'autopsia vanno direttamente sul punto, quindi non è che fanno il cadavere in quelle condizioni. E mia madre è morta di infarto, quindi... Solo che... Praticamente in ospedale ricoverata, l'avevano messa già in corsia da diciamo rianimazione, l'avevano messa in corsia, stavano andando in bagno, la signora che doveva andare in bagno nella sua casa si è aspettato che rientrasse lì, ha visto che non rientrava, è andata a vedere, l'ha trovata davanti in bagno, in terra ancora viva, con uno spaccone sopracciglio, e sopra gli è tornato infarto, e l'hanno fatto l'autopsia. Ma è ero abbastanza, sicuramente non vi siete resi conto di niente perché non nessun segno, capito? Il taglio è abbastanza netto, piccolino, tanto da far uscire l'organo, dopodiché non riempiono neanche, visto che è sotto la gabbia toracica, quindi non stiamo parlando di... Lì proprio evidentemente la tipa aveva dato il cadavere alla scienza e si sono comportati di conseguenza. Deve essere manco vecchio, poi ho visto il cranio, allucinante, sembrava un parrucchino come gli hanno tolto. Così è, lo scalpo. Crack, poi ho visto quando è arrivato a un certo punto ha fatto l'erba, non con il crack. Mamma mia, e poi con la... ha aperto il cranio, ha cavato il zembino, bubu. Dai, se tu guardi, anche se è una cosa macabra, però ci sono tutte le operazioni, qualsiasi operazione tu cerchi, te la fanno vedere su YouTube. Io lo so. Io quando mi sono operato al menisco e i crociati laterali, praticamente me l'ho vista tutta l'operazione prima di farla, per vedere cosa mi dovevano fare. Quello che non ho visto è il martello che hanno usato quando mi hanno spaccato l'osso per far uscire fuori il siero, non so che cosa c'è. Non so cosa ti stai riferendo. Ah, ho capito, sì, per toglierti in breve la rotola, per spazzarti la rotola. Aspetta, scalpello, lì mi hanno tappato perché me la stavo guardando tutta l'operazione sul monitor e avevano fatto l'anestesia lombare. E stavo guardando tutto, io non è che ho visto tante cose, quindi non è che... E quando mi hanno messo la tendina per non farmi vedere stavo per svenire, gliel'ho detto, c'era un'infermiera professionale vicino a me, gli ho detto mi sto sentendo male, apritemi con la tendina perché se no mi sento male, perché mi stavo immaginando che dovevo fare qualcosa per non farmela vedere e mi hanno tappato gli occhi, capito? Cappella ti hanno dato l'ossigeno. E lì no, non c'è stato bisogno. Lì ho sentito tutto il fuoco del martello e dello scalpello, tum, tum, tum. Poi gliel'ho chiesto al dottore, mi ha detto che si fa per far fuoriuscire sangue e pesto, cosa che c'è all'interno. Chi era il dottore? Pudda. Boh, non so chi sia. Meno male che non era Bortone. No, Alghero l'ho fatta io. Io l'ho fatta Alghero, me l'ha fatta Pudda e nominato. Fabri, quindi tutto a posto, ma cosa fai? Abbassi gli abbassi poi domani? Beh, risposta. Dove ti spari? Fantasmi? No, mi sto guardando quella cosa. Lo stai guardando? Ce l'ha il fegato, sì. Ma che sono problemi? Io il fegato me lo sono giocato da ragazzino, quindi. Non è che sia il caso di fare la tipsia anche a te. Ma perché la stiamo facendo? Sicuramente si è donata la scienza come cavia. Fatto assurdo però, eh. Adesso li tolgono la scena, li tolgono la frutta. Io l'ho già visto quella. E poi non aveva manco con le protesi, non aveva un bel seno, era notato. Già l'ho fatto, eh. Ma non riesco a capire, che cazzo c'è, perché stanno facendo questo? Cioè, se si può... Per studiare gli organi lo fanno. Infatti prendono in mano l'organo, segnano alcuni punti, probabilmente hanno notato delle stranezze, delle cose, delle malattie, il rene che c'ha dei difetti, mi pare che sia quello l'organo che sia difettoso. Invece che quella lì è una cosa che studiano al conservatorio. Cosa? L'organo. Vabbè, gli organi ci sono tanti. Come organo, se a canne. C'è anche il clarinetto che è un organo. Attivo, il clarinetto non è un coso, è uno strumento a fiatto. Chiede la Renzo Arbore. Insomma, ci può fare una cosa del genere? Insomma. A me mi ha fatto male a vederlo, l'aprono come se fosse un animale. Stai dicendo, lo stai chiedendo a me? Certo che si può fare. In che senso? Metterlo su YouTube? Quello lì tu non lo devi vedere, come vedi non è a carattere prettamente medico e istruttivo. Oh, ma chi c'è quanti ne hanno aperto questi? Perché ne trattano un bel? Di medicina, al pari di avere un libro di medicina legale. Siccome al macellaio non sa come aprire la bici, così sono qui. Ma quanti ne hanno aperto? Cazzo, di una facilità incredibile. Con un bisturi, cioè con un bisturi la spolpa tutta. L'unica cosa che toglie era il plesso solare, gli taglia le clavicole e dopodiché gli apre la parte centrale, che poi è quella che c'è davanti al cuore. Ma quello che voglio dire, proprio una facilità, ma quanti ne aprono? Sì, magari lì te parlano di una cosa americana, ma cioè al giorno sarà una specie di macello, il macello di Chilivani non è al pari di quello. Ma poi bisogna avere, quello lì lo stanno facendo a carattere didattico e basta. Tu devi considerare che non è che a tutti si mettono a spolparli. Che cosa bisogna fare per non farsi spolpare? Ma quella persona la ricomporranno oppure la lasciano così, se la buttano via? Negativo, prendono quella persona lì, l'unica cosa è, lo so perché da poco ho fatto un lavoro all'università per cui hanno portato per la prima volta a Sassari una testa su cui hanno simulato tutta una serie di esercizi di neurochirurgia. Fatto sta che sono queste persone che sono meno abbienti o persone anche ricche che vogliono dare il proprio corpo alla scienza e arrivano le teste in una specie di bidone di tamburlana congelata dall'America, le scongelano e poi le utilizzano per fare questi corsi qua. Una volta che hanno finito il corso, che ormai la testa è molle come il polpo perché simulano una decina di interventi, la prendono e l'unico obbligo che ha questa società che appunto tratta queste teste è di mandarle, come si dice, dove c'è il forno crematorio e cremarle. Basta. Insomma, una cosa di massa fanno, prendono 50 teste, vedi, la presenza di un fuoco e via. Detto così, sembra un po' truccia la cosa, però è così. Anche quel corpo lì di quella donna lì, sicuramente a seguito del funerale, cioè a seguito gli fanno il funerale, dopodiché il corpo viene dato alla scienza. Quindi lo mettono, perché quello lì ha carattere didattico, vedi che non ne fanno niente, cioè non si capisce niente, l'hanno solamente smembrato per far vedere realmente come sono disposti gli organi e come si fa. Però se fanno una vera autopsia, per cui tolgono una solo organo, poi lo riempiono con stracci o comunque con camici usati. Non lo so, io so solo una cosa, che come non mi sto pensando subito a quello che ha fatto mia madre, mi ha fatto pensare a quello. No, mi sembra una cosa un po' rude, un po' macabra. Te l'ho già detto, una cosa è quando togli un organo solamente, una cosa è quando lo fai a carattere didattico e fai vedere, cioè lì in breve sta simulando di dover togliere tutti gli organi, che non si fa perché è impossibile, quindi per far vedere come si toglie ciascun organo te lo sta facendo vedere, però quando togli un solo organo non lo riduci così un corpo assolutamente. Ma ho usato anche un coltello da macellaio, bello affilato. Ascolta, ma era morto, sì. Assolutamente, all'inizio era vivo. E avete visto che hanno trovato l'assassino di quello di Alghero? Magarese, che stava con lì. Non so la storia, cioè? C'è l'insegnante di Alghero, quella che avevano ammazzato, hanno trovato la cosa vicino al collo, al letto, eccetera, eccetera. Non frequento. Vabbè, comunque avevano ammazzato un insegnante che segnava l'istituto alberghiero di Sassari, che era di Alghero. Viveva da sola nel suo appartamento e praticamente l'hanno trovata morta sul letto con una corda vicino. Trovato chi l'ha ammazzata? Cappa. Quello che stava con lì. Sicuramente gli indizi ricadevano subito su di lui, o meglio la colpevolezza. E hanno fatto finta di non capire, però secondo me la giustizia è finita. si attacca tutto. Nei particolari che magari nello spavento dopo che l'ammassi ti scappano, ecco, sono quelli che ti fregano. E ti fanno ripetere la cosa talmente tante volte che alla fine cade in contraddizione e niente, ed è lì che ti freghi, capito? Ti mettono sotto stress, non abituato a un interrogatorio, ci cadi dopo un po'. Sì, ma hanno trovato anche qualche cosa sulla corda che era compatibile con il suo DNA, eccetera, eccetera. Quindi l'hanno incastrato così. No, ma perché stanno sempre ticchierriando i tuoi figli? Marco, si sente? No, ogni volta. Perché lei ha preso la PlayStation, tutto il giorno con questa PlayStation in mano. E alla fine mia moglie ha detto basta adesso. Adesso fai altre cose e lascia stare la PlayStation. Ma che ora va a letto, che ora va a letto tuo figlio? Già, sì, già. E Marco si corica un bel tardi. Non dorme prima... Anche a mezzanotte a volte. E la mattina si alza? Sì, sì, sì, sì. Fa un po' di studio ma già si alza. E durante il giorno com'è? Durante il giorno è tranquillo, sta sempre giocando, facendo, correndo, disco. Sta al computer, sta alla PlayStation, fa i compiti, insomma un po' di tutto. Già è abbastanza attivo. Ma no, i media li metto a letto presto, anche perché sennò poi la mattina e durante il giorno sono delle larve. No, ma questi qui tutti e due sono stati sempre così, anche perché non so cosa, andiamo a letto tardi noi e probabilmente sono abituati da quello, siccome andiamo a letto noi, no, a volte crolla, sicuri che vicino a me si addormenta, poi lo trasferisco di letto, lo faccio camminare, lo prendo per dietro, alle braccia. Mi metto le mani sotto le ascelle e lo faccio andare così, lui cammina da solo addormentato, poi lo metto nel letto, lo copro, si gira e buonanotte. No, io intorno alle 9:30 massimo li mando tutti a letto, via. Già compresa mia moglie che poi li addormenta, un'oretta li addormenta. Là. Poi si addormenta anche lì. Ah no. È successo anche a me per questo lo sto dicendo. A me una volta mi sono addormentato nel divano e Manuela ha aperto la porta piccolina, è riuscita nelle scale. Mia moglie mi ha detto, Gianni, ma Manuela con te? Sì, mi sono svegliato, no, non c'è. Casa di Dio mi trovava la porta delle scale aperta, non l'avevo mai fatto. Questo gli assurdo di smobiliardi. Sono imprevedibili i bambini, sono imprevedibili. Se avevo costato a colpa mia mi sono addormentato. Stavo guardando il televisore, stavo guardando domenica e me lo ricordo ancora. Emanuela correva un po' da me e un po' da mia moglie che era in cucina. Quando era con me mia moglie diceva Gianni, cos'è sì perché era l'iscola, capito? E a un certo punto facevo, a un certo punto mi fa Gianni, ma con te io l'ho addormentato, mi sono svegliato e sono passato, sì, e poi ho detto no, non c'è, come non c'è? Poi Manuela, Manuela comincia a chiamarla, non rispondeva. E alla fine se l'abbiamo trovata su, dove c'è la porta per andare sul terrazzo, sul tetto. Poi, lei stava cantando tranquilla, noi tutti spaventati, 5 minuti ci è venuto, guarda, ci è crollato il mondo addosso. Lo so, un sacco di cose, infatti. Ma certo, bisogna stare un po' attenti perché i bambini sono imprevedibili. Dal giorno sono diventato anche troppo ossessionante. Dal giorno mi sono spaventato troppo e mi ha lasciato il segno a me. Sono sempre Marco, dove sei? Marco qua, Marco là. E anch'io sono risento, voglio sentire, insomma, io ho sempre paura che aprono qualche finestra, capito? Una volta via Pascoli è successa una cosa così brutta, tanto tempo fa io ero un ragazzo, e questo amico abitava via Pascoli, il fratellino che aveva, mi pare, 3 anni o 4 anni, è salito sulla sedia che c'era in terrazzo, dove c'era il nonno seduto, il nonno si metteva la sedia fuori per prendere il fresco, è salito lì, si è arrampicato ed è caduto giù, morto sul colpo. Infatti ho sentito proprio, senti. Cos'è questo soffio? Qualche Ma sei tu? No. Qualcuno che chiama Giorgio. E così, bambini, grande, quando ci vuoi gemellini, ricordati che devi stare molto attento. Gli unici gemellini sono quelli della camicia. Perché possono nascere gli altri, no? Hai ragione, sto scherzando, non mi sembrerebbe vero, almeno fatti i fatti, sono nella doppietta del fatto. Riprendi, Fabrice. Dove riprendi? Bisogna mettere il cantiere. Roba. Brodo che sta rompendo le scatole, mi sta telefonando. Vediamo se c'è qualcuno in radioascolto. Attenzione, sberla se mi ascolti. Cattivo. Attenzione Sparviero se mi ascolti. Attenzione Occhi di Gatto. Ci sono. Sono a casino. Ali su i sapparini. È col maledetto di Bro, deve essere su. Capisci. E perché sta rompendo le scatole in grotte, capito? Sta rompendo le scatole. Tu annullalo. Devo spingere due cose, così lo annullo. Annulla la frequenza, ma se su l'allo lo vedi che non rompe più le scatole. Le romperà qua, ma... Dai, già faccio da bravo. Bravo. A proposito, e Luca non c'è? Attenzione Luca. Attenzione Luca manicomio, attenzione il manicomio. Oh vabbè, poco fa non avevo riconosciuto che era Chiara lì in parcheggio, capito? Camparoggia. Ma invece chi era quella signorina che è salita con te in ascensore? La mia seconda moglie. No. Io ho tre mogli. Non so che ero musulmano. Pensavo fossi, vabbè dai. Se te lo dico dopo la pensavo fosse, no, a parte gli scherzi, chi era? Vicina. La vecchietta, quella che rompe sempre le scatole. ecco perché sono sempre lì. No, a parte gli scherzi, è tre, chi era? Un'inquilina, no? Ho capito, ma ho avuto una certa confidenza. Ma sei in cuffie? No, non sono in cuffie. Sto scherzando. Che bastardo che sia. Sembra la base. Vediamo qui, già. Via. Io sono Occhio di Gatto in frequenza e Occhio di Lince in strada. Ha detto palletto. Ormai sono vecchietto, non faccio più effetto una volta, prima avevo lo sguardo fulmineo, ormai cosa vuoi che faccio, grande? Lo so, perché ci vuole l'occhio della volpe, del grande, che poi stasera in frequenza eravamo in tre dei volpi, perché è comparso per la prima volta, almeno io l'ho sentito per la prima volta, tale Gianni Torro, poi c'era Vittorio Volpe e c'ero io, quindi eravamo in tre le volpi. E già vi ho sentito. Sendo cagate, no? Infatti non sono entrato, non sento certi discorsi che volevo entrare a fare. Cattivo, anzi è stato un QSO molto piacevole, assolutamente. Cagate le stavo dicendo io a un certo punto, ma è mio solito. Che pittine, a me quando sento queste cose, questi pannelli fotovoltaici, queste cose mi si girano i coglioni. Perché ti avremmo mandato a zappare. È come uno che taglia capelli, dici che hanno inventato una macchinetta per tagliare i capelli, a quello gli si gira i coglioni, no? Come se quando vedono a me, capito? E allora, che i pelati, non avevi sentito su Rai 2 la trasmissione di Rai 2, quella con Max? Tipo perché? Che c'è Super Max che fa il questo parrucchiere, no? Cazzo, c'era un bel con i pelati, cazzo, li fa beffa. Ma se sono così, secondo me buona causa, buona parte in causa è stato il mio barbiere. Che bel per bere. Che colore ha lui se ti tagliavi i capelli? E che i capelli, a seconda di come li tagli, li stressi comunque. Comunque me li tagliava un bel male. Ah, che stronzata, che adesso ci vuole anche la forbice adatta. Vabbè, non, sicuramente mi sarebbero caduti lo stesso, perché poi guarda che io ne ho un bel... Cioè, rispetto a quella gente che è pelata, pelata, io un minimo di cola non la posso fare. Guarda, ne ho più di Gianni. Qui sono di cottona, capito? Quando ci vedi il parrucchino, magari. Di cottona, se li vaporizza. Hai visto più di meglio tagliate ancora? Sta di ginocchio, più... vabbè, se li sei tagliati anche tu, ho visto che ce li avevi corti. Fate bene, fate bene. E poi ti accorgi subito, sei il primo che si accorge quando piove. Che la gabbia, ma cosa c'è passato? Qualcosa o no? Che so. E altro si ricari. Che? Perché mi stai chiedendo ciò? Perché io stavo dicendo bene, ma quella roba attaccata oggi sei un cesso. Però? Stavo dicendo bene con quel microfono, con quel lineare e con quel baracchino. In quella stazione era perfetto, stai sempre manovrando. Non manovrando niente, guarda, è nella stessa condizione, quindi non riesco a capire quello che mi stai dicendo. Ora, ora, forse sta scaricando la batteria del microfono. No, io va bene, dai. Bene, dimmi se c'è qualcosa che va male. No, io ti ho dato un consiglio ieri. Non ho capito. Detto, con l'apparecchio, lascialo lì e mettici il lineare, come l'hanno montato l'altro giorno. Sì, è così, è uguale, guarda, se senti lo stacco anche del coso, è uguale, cioè è uguale, non ho toccato niente. Forse sono io, Dio, che c'è il volume senza cuffie, col volume è basso basso. Allora spegni la palestra e poi dimmi che non sto uscendo più come prima. Mi pare che c'è problemi forti, e adesso c'ha problemi mio, o già questo c'ha problemi forti. Non so se mi hai ascoltato, però ho detto che praticamente i calvi sono i primi che si accorgono quando piove, e anche i primi che si accorgono cosa c'hanno le artrosi cervicali. Quello sì, c'hai ragione, ma anche i primi che si accorgono quando hanno le corna. E anche quando prendono colpi sono i primi che se ne accorgono, eh. E quando l'uccello gli fa la cacca in testa. Quello è peggio avere i capelli perché ti si impasta, capito? Mentre invece con un fazzolettino non infiggi tutto. Con i capelli non so se cosa sia più conveniente. Vabbè, ma senti il calore con la testa lucida. Ma sapevi quella barzelletta di quello che andava sempre dal parrucchiere che doveva andare a Roma dal Papa? Sì. Ah, che vecchissimo, me la raccontava mio nonno. No, di fammela raccontare anche a me. Quello che da paesello doveva andare a Roma, e allora andava sempre al parrucchiere e si faceva tagliare i capelli. E per me si è andato a Roma il parrucchiere, si è andato, il papà non ci sei andato, non l'hai visto, cazzo è andato lì, non l'ho visto, cazzo è andato lì, non l'hai visto, no, vabbè. Parto la seconda volta, cazzo gli fai i capelli. E poi l'hai visto il papà, cazzo se la fa San Pietro per il papà, cazzo se la fa San Pietro per il papà. E vabbè. Cazzo, quarta, quinta volta, va, cazzo, vai a Roma, cazzo, si fa i capelli, va a farsi i capelli, ogni volta si faceva i capelli, sai, quando vai fuori a Roma, cazzo, dottore, è andato a Roma, perché non è possibile, sì che sono andato, e me sono andato a vedere il Papa, non è possibile, sì, sono andato, l'hai visto, sì, sì, l'ho visto, e vabbè, e come l'ho visto, sì, sì, l'ho visto, lì, come sono messo a tabellizzare, mi sono messo anche la mano in testa, e ho detto, ma chi è quel coglione che ti ha fatto i capelli? Non mi riconosce nessuna religione. È una religione astratta la sua. sei cristiano? Certo, non lo so nemmeno io cosa sono. Io momentaneamente mi ho fatto la tessera come testimone di Geova, come cristiano, come musulmano e come buddista. Non si sa mai quando voi tutti diamo la tessera e dici, cazzo, proprio quella mi mancava. Ecco, lei ci sono. Dai, Abba, che hai detto? Ogni piede più staffa vuole tenere. Oh, yeah. Poi ti che sei su e dici cosa sei? Cazzo cristiano, ti guardano. E vai, cazzo, non vedi che qui ci sono i musulmani. Oppure fai lì, io sono musulmano. E vai, non vedi che qui c'è, cazzo, c'è fottito. Allora ne devi avere un bel tessere, perché guarda, una volta mi era capitato in una bancarella di comprare un libricino con storia delle religioni, che poi è realmente è quello che dovremmo studiare, avremmo dovuto studiare alle scuole superiori, comunque alle medie, perché non vedo perché studiare solo esclusivamente la storia della religione, la catechesi cristiana. Comunque, se tu prendi questo libricino, ma lo sai quante religioni ci sono, soprattutto in Africa, ma da buttare. Lo so, ma lì sono anche religioni, più che altro sono tribali, capito? Ma infatti ogni popolo, ogni tribune aveva una, capito? E poi veniva anche letto lì il loro Dio. E va anche? Lì lo eleggono, capito? Ci sono le votazioni, sono più democratici da quella teoria, eleggono il Dio. Cazzo di terina, questo non lo sapevo. E va bene, ma e oggi come mai non sei al lavoro? Certo, domani sera lavoro io. Ma dire così, per cui, domani, no, fatemi fare una chiamata. Attenzione Gigi Vulcano, se ascolti. Andiamo a pescare il vascone da Fabrizio. Non voglio, cacchio, chi vedo lì lo mando via. Cazzo, ma senti, occhiate, ma non sei certo occhiate enormi ci sono, cazzo, quanto ce ne sono. Io non so come fare per pescare, posso cominciare con il pane, ma se il pane non lo dici, compri lui, poi gli metti la pastetta, che poi dico la pastetta. Capito? Se dovesse capitare, poi diciamo alle persone che si avvicinano, oh, mica noi conosciamo il signor Mangattiami. E allora vedrai che non ci dice niente nessuno. E lì vi viene male entrare, lì dentro già vi viene molto male entrare. Possiamo fare il tuo nome così, il Mangattia, io sono cugino del signor Fabrizio Mangattia. Sì, sì, cazzo, siccome come conoscono, ah, così è. Ah, io, no, è peggio, se per il mio nome è peggio, cazzo, perché lo sanno che sono rompicoglioni. Di cosa? Chiedo che sono entrato, ho anche visto, questo è lì dentro, si è creato un abitato naturale. Sì, sì, va bene, tanto me ne pulito, ma c'erano delle occhiate, che poi ci sono le vasche di calma, che allora quando vengono costruiti i gruppi, vengono fatti gli standard, perché no, gli standard dell'Enel quelli, vengono fatti le opere di presa, si chiamano, viene presa l'acqua, dove vedi le vasche ributtate in acqua, eccetera, eccetera. E praticamente gli standard imponeva di costruire, diciamo, quattro opere di presa, nel senso che ce ne sono due sgrigliatori dove prendono, uno per ogni gruppo, e poi a fianco venivano costruiti altri vasconi senza gli sgrigliatori, senza i motori, comunque senza, però comunque le strutture civili venivano costruite per altri due gruppi, sempre così sono stati fatti. In cui un po' in tutte le parti, perché dove c'è quel movimento c'è sempre un movimento, ma lì poi tutta una vasca, queste persone vanno lì, devi vedere, cazzo, bagasse di occhiate, ti fanno anche paura, cazzo, da vederle. Minuti di bianco per me che sto facendo una cosa. Sì, fai pure. Asco, è come si possono prendere, cazzo, con un tavolo elettrico alle prese altare. No, pesca. Ma la nappella, così si chiama, sì. Nappella. Non lo so, noi la chiamiamo bilancino. Praticamente l'acqua dentro col bilancino, che sarebbe un coppo che tu lanci e poi lo riprendi. Ho capito. Un cazzo se gli butti l'amo a bocca, non lo sai? No. E loro sono furbe. Non mi sembra più furbo. voglia, beh, scenduli, io sono lì a due passi, poi vicino l'impianto scenduli e faccio, posso starmi lì tranquillo, cacchio, adesso me la studio, cacchio, me le tento la notte, solo che non aggiugano, cacchio, preferisco tentarmi la cadrea. È andato a bersi un cicchetto. Sembra il grande. Scusa, con il microfono, sì. Quale microfono? Il mio? No, il mio, perché mi devo tentare. Sì, già sta andando. Manco male, che c'è il tappeto sotto. No, già sta andando. Grodde si è perso. Grodde si è perso, e non sa tornare. Comunque corrone è zero in questi giorni, vero? Sì, ah, c'era zero, strano, in questa parte è difficile vederla zero. Anche qua. Strano però. Asco, ma allora va questo cazzo di mercatino per portare un po' di gente su queste frequenze, non ce la facciamo. Bisogna fare la roba, quello che stava interessando, per chiedere permessi. Ai giardini lo chiediamo. E chi ci va? Se non sanno che c'è la manifestazione, nessuno ci va. La pubblicizziamo in sul giornale. Possiamo fare così. Oh mio capo, mamma mia. Uff, sì, bisogna farla. Ma non c'è nessuno stanotte. Buh, cazzo, mi sta sparendo. Ghiacciarsi da poco fa. Sì, allora, siamo io e tu, il grode che è in bianco, e Sparviero, mi sembra strano che Claudio non stia ascoltando, sarà. Avanti, break. Avanti. Sono fatto un break dopo l'onestà. E boh, io non me l'ho sentito, c'è un po' di... Ma basso era il break, perché ce lo squelci. Ho capito, ce l'ho squelciato, tanto alla fine sono tutti segnali alti e sono detto che era un po' a balle. No, io no, ma non ne ho di correre qua. Nemmeno io, sentivo zero, però lo squelci leggermente, io non lo squelcio mai con le cuffie, la verità mi dà fastidio, però oggi che c'è ancora un'altra cosa accesa mi dà fastidio, allora lo sto squelciando. Appagato. Ma dove hai lavorato, sì? Noi siamo aperti, però non lavoro. E domani è tutto aperto. Lo so. E così ti dice, guarda. Ho visto un ragazzo di manovra. No, Dio. Andiamo a fare sempre il telefono, scusa. Cazzo, un attimo di bianco, boh. Secondo me c'è lo zampino di qualcuno. Beh, stanno facendo vedere sulla 7 la figura di Cosentino. Non la guardo mai. Ho visto che... La 7 non la guardo. È uno dei canali migliori che ci sia. Se voi sentite un telegiornale dove si dicono un po' di cose giuste, dove si dicono le cose o la 7 o la 3, gli altri sono inascoltabili. Le cose come stanno veramente? Magari sì, però noi dicono, invece ecco, magari la 3 è anche un po' fazioso dall'altra parte, la 7 invece, tutti quelli che stanno fuggendo, che hanno mandato via la RAI, no? Tipo i classici Santoro, vabbè, tipo tutti quelli che lavoravano da lui, la Nandini, stato tutti alla 7 se l'ha presa, capito? Vuol dire che anche i soldi. Ma i soldi erano attivo, quelli sì, ma la 7 era una televisione che ha iniziato con un telegiornale così, e ha iniziato con Mentana, no? Che l'ha buttato fuori canale 5, dopo un po' se l'ha preso, ha un telegiornale, mi sembra quadruplato, quadruplicato proprio gli ascolti, una cosa impressionante, capito? Poi dopo c'è quell'altro giovedì che lavorava, giornalista bravo, che lavorava con Santoro, Lavandini, adesso, tutti quelli praticamente che hanno fatto fuori da Canale 5 perché davanti Berlusconi, oppure li hanno fatti fuori dalla RAI perché erano scomodi, capite? In questo diciamo, lotta politica di potere, no? Di potere, caso l'assetto ci sta guadagnando un sacco, perché sta guadagnando un sacco di ascolti. Allora, poi ce ne faccio sempre fresca domani mattina. Eh? Come domani mattina? Ogni mattina. E beh? Vabbè, è un sogno. Tu non sai come sono io. Quando sto per addormentarmi sogno. Stavo già aperti. Tu veramente? Mi succede così, boh. Stavo pensando della merce che sta arrivando. Auguri. Comunque te l'ho dato tutto così. Ok, ci è solo la TV, ma che l'ultimo passaggio non l'ho copiato. Ho detto, te ne guardato tutto il video. Sì, tutto quanto. No, ma a me non mi fa impressione. No. Oh. Ma nemmeno a me, lo paragono quasi a una bestia. Noi sentono tutti i giorni i fittesi, questo e quell'altro, quindi li aprono, li tolgono, mamma mia. Hai capito, una volta che sei morto, Cazzaro, la mamma, non lo rispetto per chi muore quella. Ma se no, vuol dire che si è dolato lui sicuramente, non è possibile che uno non ha preso un cadavere e gli facciano quello che gli hanno fatto. Cazzo, ma anche quello, bel lavoro del cazzo. Per carità. Oh, Rubina. Rubina. Oh, cosa? Oh, è quello che devo fare adesso, non lo ricordo come si chiama. Ma il Grode non c'è, anche il Grode se n'è andato, ce l'ha lasciato soli, Che un bastardo. Che no, che non è entrato qua, io buco, ma se ci sentiamo dopo, buco. Da quell'attore, poi dall'attore solo magari sì. Sì, sì, io mi avevo fatto piacere lavori tutti i due assieme, ma lavori sull'intasca. Ma cosa c'è la bagnaga? Allora, come ho detto, aspetta dove rientri il globe. Me lo dico, non rientro o no? Boh, il grode maledetto, cazzo, mi eri in ricerca, il grode maledetto, non se ne andavi, non eri entrato. Ci ha bruciato, come sul solito fare, non è mai di parola. Chi è avanti? Chi è che sta fischiando? Chi è che ha bussato? Avanti che ha bussato. Ho sentito uno dire una cosa o già. E anche io ho sottofondo, mi sembrava. Ma sai, ho visto questi capolavori di negrica, non te ne immagini, cazzo, questi qua quando sono andati negli Stati Uniti, cazzo, invece di la differenza tra noi e questi qua, cazzo, quando noi siamo andati negli Stati Uniti, cazzo, abbiamo, bene o male ci siamo arrangiati, abbiamo parlato la mafia, no, tutte queste cose qua, quindi cazzo, quando sono andati a fare i, cazzo, gli schiavi, te ne immagini? Cazzo, ho prodotto l'inserita, avevo, porca troia, meglio va adesso, no? Io? Come ho aumentato il segnale? La modulazione è più chiara. Cazzo, dimmi due. Aspetta a vedere quante stazionarie avevo, aspetta. Non molto, però. Avevo poco, poco di più. Avevo capito, ho inserito per l'altra antenna, vaffanculo. Non l'ho detto. Da così. Allora, ora, ecco qua. Allora, guarda qua. Da questo passaggio qui a questo passaggio qui, secondo te è cambiato qualcosa? Ora, prova, perché devo accendere tutto, che va anche tutto al buio. Allora, da questo passaggio qua, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, a quest'altro passaggio qua, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Non dovrebbe essere cambiato niente. Sì, un tantino, ma un filino. Ma allora va meglio così, un esempio, va meglio così o va meglio così secondo te? Ma secondo me va bene lo stesso. No, sicuramente va bene nulla. Vabbè, ma sto provando, siccome c'è stazionario, ad accordare ugualmente a vedere cosa succedeva. Forse bisogna vedere il segnale, se aumento diminuisce di un picchino. No, non credo, non rientro, volevo salutare che anche io fra un po' sto chiudendo. Attenzione, probe, andatevene, beh già, solo ti dico. Che passo anche io, chiudo tutto qua, va. Che tutto che sto lavorando, sono un bestato. Allora, dai, buonanotte, Fabio, ci sentiamo ai prossimi. Buonanotte, dai, sono un po' in correcchio. Quando già ti sentivo, veri... giù di tono, io quando addormentavo ancora ce ne passo, mi sono anche addormentato quando sono rientrato da lavoro, sono pronto per affrontare una notte intera io. Ciao a ballare, vai, vengo a prenderti, mettiti il tutù. Sì, dimmi il marrà. E il tutù ti metti. Sì, ma il tutù, il tutù. No, perché di scrittura è un nome che non ci fanno, ma prima andavo sempre, venerdì e sabato, lo vado a sapere, anche la domenica molte volte. Anche venerdì, sabato e domenica me ne andavo alla Porto Torres. No, io frequentavo la Roma di Curia, Proaghe, a Ussi, Sparaluia e l'altro, tutti e due. E anche quella del padre di Lucino, l'aeroporto 84. Io sono un po' più giovane, erano già trasformate quelle. Invece le ho conosciute. Ma comunque dal Porto 84 è ancora discoteca. Credo sì, io all'aeroporto ci andavo. Io ho conosciuto Scalarruia. La Lava di Curi non sento parlare, però forse nel periodo mio forse non c'è lungo, me la ricordo a parlare. Ma io ci sentiamo domani, dai, faccio un po' in ascolto, sia che richiamo il grode, ma faccio un po', guardo un po' di TV. Sì, io e Fabri, buonanotte, ci sentiamo. Buonanotte a tutti, di essere più buoni, nell'ascolto. Seguri, prima tra i guai. Come era guai, sono qua. Io mi lo stesso stavo spegnendo, la verità. Dai, allora ci sentiamo domani. Ma domani mattina dove sì? E domani mattina sarà a casa che c'è il bambino con la febbre. Mai. E boh, l'ho ritratto da scuola, lo devo portare a farsi i capelli. Anche a lui invece ha detto, papà, non ci voglio andare, c'ho mal di testa. Beh. Politico o lo svizzero? Lo svizzero. Brava. Va bene, dai. Nel caso ci sentiamo domani mattina. Ehi, poi se sento la passiti dopo la roba. Ah, non ti preoccupare, non c'è problema. No, così me la tolgo, se no c'ho questo qui, quello dentro l'armadio, ti faccio un pacchetto. Ma non c'è, non c'è problema. A domani mattina allora. Buon 144, ben sentito, cordializzato e arrivederci. Ciao. Bye bye.